cosa del genere. Ah, capito. A me piaceva essere preso la fissazione di tutta la stazione fissa, capito? No, è un baracchino normale che ne ho tre di quelli, quindi uno me lo tengo perché è il mio personale, l'altro l'avevo acquistato, l'ho ristrutturato e lo sto vendendo, ci ho speso un po' sopra, però vabbè, diciamo che lo sto vendendo per quanto l'ho pagato io, tra modifiche, cover, pomelle e quant'altro, e l'altro un altro regalo perché un amico se lo meritava. Ma lì c'è lo spazio per mettere un altro qui, se voglio mettere, però giustamente qua devo fare un po' di pulizia, ne ho un altro io che si è perfetto. Lo accendo anche non veicolare, è un Connex 4000 e c'è questo 1, 2, 3, 4, 5, 200 canali mi sembra, AMFM, SSB, no, non mi piace più il veicolare, lo sto andando via infatti, non mi frega niente, è tutto serigrafato poi. 271 canali per sapere, come quello che ho io. Cosa Tony? E 271 canali, ho detto, quanto quello che ho io. Basta che togli la macchina in avanti, ci metti quella del 2009 ed è bello, rimane un bel apparecchio. Ma il mio Tony? Lo sto dicendo, io ce l'ho uguale, il Connex 4000. C'è la casa di Giovanna. Gli ho messo, gli ho tolto la maschina in avanti, gli ho messo quella del 2009 ed è bellissimo, sono vedere, uno specchio, veramente bello. A me questo fatto serigrafato non si comprende nulla la scritta che c'è, guarda. Invece io ho quello originale, la mascherina c'è l'originale io. Ci trovo la mascherina originale. Ma Antone, è Giovanna che fine ha fatto? Non ho capito te. Ho detto Giovanna che fine ha fatto? Ah, pensi che stavo lavorando, perché non c'è tempo di entrare, capito? Poi c'è il nipotino. Da una cosa all'altra, capito, adesso è incasinata, però gli apparecchi ce li ha. C'è l'antenna, c'è la... in cucina, cioè, in pratica sto usando il Connex 4000, sto usando con la mascherina del Connex 2009, ma è veramente bello da vedere. Io la mascherina del Connex 4000, Tony, ce l'ho, l'originale. E beh, e cosa aspetta da me? Sì, per me te la posso anche dare, così intanto a me non me ne frega niente di quella, c'è la manopoli, c'è tutto. Amici, cosa vuoi te la pago, non c'è problema. Sì, accidenti, si indaghiamo. Cosa? Si indaghiamo, giudito. Va. Comunque questo serigrafato eccetera è adesivo, mi Antonella, lo sai? Sì, vabbè, questo non è adesivo, questo è l'originale, vero e proprio, celeste. Che lo sai che con il 4000 è così. Ho capito, ci vediamo da un attimo, dai. Io c'ho veramente l'originale, perché a posto di quella lì ci ho messo la mascherina delle cose del 2009. Ma tu dovresti vedere quanto è bello. Veramente bello quell'apparecchio. E sta vincendo quanti canali c'ha? 271 A, B, C, D e F. Siccome qua non riesco a leggerci a colore rosso e così scritto, ecco, serigrafia a me, non mi piace nulla, non si comprende nulla. Ma te lo sto dicendo, c'è scritto A, B, C, D e F. Ecco, io vedo C, D e F, là che non le vengo. Sono mischiati mezzo ai colori, un casino che. Sta producendo. Allora è come questo, Antonio. Anche questo fa dalla A alla F. Esatto. Invece il 2009 quello che c'ho io faceva, e c'è scritto A, B, trattino, C, D, trattino, E, F, trattino. Quindi in pratica c'ha 1, 2, 3 scatti. Poi andavi nella... col pulsantino sopra e ti dava i scatti dei canali sotto, hai capito? Come in quel 2009 che ci ho modificato, fatto tornare 4005, capito? Cioè, 4005. 5 34S con il numero se vai dietro. Ho capito. Ma allora, tanto non per averne un casino di cani, poi parli sempre sul 10. Ma va bene, dai, ne approfitto ora che ormai che vado a prepararmi due cose e poi vado a nanna. Quindi niente, vi saluto e sentiamo domani se coincide. Riprendi Tonino. Ok, ciao T. Buon corretti, l'altra max lo fa domani, stiamo bene, ci sentiamo stamattina, ok. Avanti, poco. Sì, comunque domani quando passi te lo do quella ceccia. E in bustato ci sono, c'è la... vabbè, c'è tutto, c'è. Manopole, eccetera, eccetera, quello che ti serve. Il fatto che togli quella specie di cesso che hanno fatto e ci metti quello sul vigilare, basta. Sì, perché è proprio un cesso, guarda, non ti giuro, non mi piace. Non mi piace per questo motivo, che non comprendo nulla, non si vede. Cosa succede? Io ci ho messo, guarda, se non ti avessi fatto, ma ti posso dire, quello che ho io, a casa di Giovanna, alluminio, diciamo, no? Vabbè, già lo vedi, comunque te lo faccio vedere. Se avevamo fatto una cosa già sarebbe stato molto veramente meglio di un'altra cosa, perché è veramente bello, piace a tutti. Un 2009, la mascherina piace a tutti, si se innamorano, ho capito. Sì, capo, non so presente adesso. Che ora sale domani a fare? Ah, ti piace sale? No, metà 10, come vuoi tu? Ok. Va bene. Adesso non so che fai 12, ho il dottore. Però devo andare a farti prima un controllo oculistico, Ettore. Cos'è, Ettore? Adesso devo fare un controllo oculistico. Se non vedi bene con le lettere, hai problemi di vista. Cazzo, guarda, se ne vedi com'è sto baracchino, non vedi neanche tu, ma che cazzo stai dicendo? Se... Antone, diglielo tu com'è. Vabbè, se appena svegliato, evidentemente, Giuseppe, cosa stai facendo il maniaco mano a mano? Maniaco, no, non stavo facendo il maniaco, stavo guardando il telefonino su Facebook, le firme. Io stavo cercando donne. No, lascia perdere, Tony, lascia perdere. Ho mandato tutto quanto a quel paese, hai capito? Era ora. L'unica è voi della città tua, hai capito? Donne vuoi dei paesi tuoi? Quello, dunque, adesso me ne cerco una qua, dunque, quindi Sassari, almeno sono più tranquillo. Sì, ma prima di cercare da qua, già lo sai cosa devi fare. E poi cerchi, avanti a tre. Prima di una passata viva, poi la... ti abbiamo in pratica. Ah, fatto. Non dicevo quello. Beh, è perché non lo posso ancora immaginare, no? Tanto, no? È proprio imbarrato quello, no? È imbarrato. Giuseppe, non ci stavo pensando con lì, tu, già lo so che sei generoso, sembra passione. Come non ti conosco, no? Ti ha avvicinato. Ti faccio la giusta strada. Io fai il controllo. Controllo la messa a punto, dai. Tanto guarda, Tonino si è comprato lo strumento di ginecolo, capito? Con quella scusa controlla. Fa come tesoro, fa casa, fa uguale. Vieni tesoro, vieni dentro e ti controllo, vieni, non c'è problema. Controlliamo che problemi c'hai, tesoro. Serve con la piccheriola in mano. Tanto. È come... Tonino è come coso. Come ginecologi che controlla sempre tutto, quello lui, deve stare quello, sempre allerta. Giuseppe, già lo sai che sono una persona abbastanza seria su queste cose, non le faccio. Ma non sei drumito però, sei parlato. Antonello, come mi giudica? Visto che la sveglia, l'ho chiamato su Facebook, l'ho chiamato direttamente su 10, rompi palle, lascia perdere il computer che è pieno di cose, ragazze per bene, l'avessi entrato. Hai capito, io ero convinto che era addormentato, invece continuo sulle vecchie, non si pensa che è di vero, eh. No, no, ero sul telefonino, stavo guardando il corso, stavo guardando quel film, quel settone di film che danno, hai capito? Vabbè dai, adesso mi metto tutto a posto io. Ma c'è un bucato di bombe della Romagna, le mobilità che mi sono costruito. Ma un PL, ha giocato un casino, guarda, per carità. Mi ha fatto un pezzone più lungo. Vabbè. Lascio mi guardo un po' di TV. E poi, Anna Nuzza. Ok, ci vediamo domani mattina, Antonio, allora. Ciao, buonanotte, vado a fare, ciao a che... a bisoncino, ancora dico quando lo farete, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Tony, ci sentiamo domani, anzi ci vediamo domani, noi ci sentiamo, ci vediamo direttamente, tanto già c'è un po' di pelo in quel bar. E io detto ci vediamo domani infatti. Ciao, dovrebbe salire a te, cosa? Non ti preoccupare, se si sveglia presto, sale anche lui, Giuseppe. Esatto, sì, bravo, ci sei arrivato. Tanto domani a te c'è Tizia, c'è. Poi domani sera c'è la sorella, c'è. Vabbè, ma lo sai che io lì, caffè non la prendo perché tanto non mi devo. Mi devo andare a casa tua in bagno. Ti fa così. Ah, già chiuso, Tony. Sì, già chiuso Torino. Io. Tutto a posto, sì, abbiamo andato a fare la bandiera. Io non ho chiuso, ho cambiato il microfono, il minchiofono ho cambiato. Era senza minchiofono, come sentito, non la potevo rispondere. E' rimasto sempre lo sconto. Non so se si è addormentata la pantera, la verità. Oh, io ho la pastiglia per dormire. È stato tutto qualcosa che si è bevuto. Sai, diventa come il caffè, no? A un certo punto. Perché lo prendi una volta, lo porto tutto il tempo e ti fa effetto. Quando invece lo pigli mattina e sera, mattina e sera, ti fa l'effetto contrario. È come la camomilla. Se tu lo prendi 5 per volta, un cazzo ti dormi. Manco se te spari. Ho capito. Lo so. Mio, mi sta bevendo la birra, quella che ho comprato stasera, una, mi sta bevendo per esattezza, ho cenato, mi sono bevuto con le piccoline che mi sono lasciato da ieri, figurati tu, quindi, adesso me la bevo una come si deve grande, con calma, non sono neanche andato al bar, la verità, perché non avevo voglia. Ho cucinato a casa, adesso ogni mattina lavo in terra, poi faccio i piatti, poi cucino e poi vado al bar e mi distrago un pochettino. La tua madre è sabato. Vabbè, ma è sabato. Vabbè, da se non devo fare cosa, già mi faccio una scappata. Intanto devo passare il Tomino a ritirarsi quel frontalino del Commerce 4000, quindi. Io vado a lui, intanto io non ne faccio niente. Io ho le... nel Commerce 4000 ci ho messo il frontalino del 2009, quindi non me ne posso nulla. Adesso mi... se tutto va bene per arrivo, quando ho fatto una carta, andiamo da Coso. Tanti cinesi e prendiamo la limitatore perché poi tocca tu sta partendo, hai capito, sta partendo questa parte del limitatore, sì, la limitatore la vabbè 17 euro costa di quelli, è una cazzata per quello, se vuoi pigliarmi anche due portatevi io. Quindi. No, adesso lo tengo perché sto tagliando troppo, dunque no. Non voglio cazzo far danno, ho capito. Andare a fino, dunque. Che cosa scalda? Se che quella notata da io non si aveva un cazzo, adesso se è quello. Vede più quello cinese è sempre tranquillo. Ho capito un accidente, cosa hai detto? Ho detto che vengo di prelievo e andiamo dal cinese, capito? Prendiamo questa l'esercitatore, non è buono, te lo cambio. Lì vabbè già lo pigliamo assieme alla metà a Futedini. Tanto cosa una cazzata, me lo prendo. Sta facendo truti, Giuseppe. Perché c'è, ma... Perché c'è così questo rumore, Giuseppe? Sì, mi ha regalato una metà ore, non si aveva cazzo, capito, il discorso è quello. 17 euro, me lo prendo io e glielo presto. Insieme a baracchino, la veloce come si deve. Giuseppe. Sono qua. No, sono in ascolto, dai. Ma con me, no, non voglio parlare molto perché ho paura a casa che succeda qualcosa, dai. E vabbè, già me lo prendo io domani mattina. L'alimentatore. Se è vicino al tuo fratello. E sali qui, andiamo un attimino per la niente, ma lo prendo, trovo il collega, sei a posto, non sei tranquillo. Sto facendo il gelato. Ok, va bene, ok, va, sentiamo domani, dai, buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe, non posso finire, è fatto poco l'amore, Ciao Giuseppe, ci sentiamo domani, va, ok. Ma che lo sai, Tomito? 10:30 che lo sai? Allora che vuoi? E fai 10:30 là, così mi organizzo più che altro. Ci ha messo bene. Tanto le cose già dentro l'involucro, hai capito? Quindi ho lasciato che l'altro e si è a posto. C'è insomma dopo, c'è tutto. Non fai altro che togliere quella specie di lavandino che ti hanno messo e ci metti sull'originale. Come nel cazzo? Ah, non c'è una colla, è tutto del frontalino, il suo originale, ci sono quattro vitti nei fianchi, poi li togli le manopole, e poi non ci finì l'altro, basta, non devi fare altro. Io mi sono messo qualcosa, la verità. Il frontalino del Conex 2009 e la verità è molto meglio del Conex 4000 e di altre cazzate che si vedono in giro. La gente vuole gli apparati così belli, capito? Quindi da vedere. Quindi a un certo punto, se tu vedi, guarda, ti faccio la foto del Conex 4000. Anche se c'è la macchina del 2009, se lo prendereste al volo, il discorso è questo. A me piaceva anche quello che avevo fatto in volte con fa, Samurai, te lo ricordo. Cazzo, vero, se riesco a ricordare il coso, l'apparato di una persona che c'è il 2009, lo sistemo, e così almeno me lo tengo come ricordo. Samurai che era tutto attaccato, era carino come era fatto. Ho capito. Samurai che può più meglio. Sempre si bandera dentro di quella. Via, che sto dicendo? Si bande. A, B, C, D, F, boh, basta, c'è poco da sbagliare. Sì, per cui anche per questo ti metto a vero, saprai. Il discorso è quello lì. No, no, se avevo messo questo usando adesso io, il focalino di quello sarebbe stato un bombò, sarebbe stato veramente bello. Invece grigio, capito? È quello di cosa? Della buon'anima di... che è morto. L'ho sistemato io questo apparato qua, era 20 watt, la 87, figurati tu. E di chi era? Quello che abitava al monte. Sì, Giulio Padre Pio, sì, esatto. Di cosa era morto? È morto di cosa? Questo mese. È ricoverato di alla... dove c'è gli anziani, è morto di Covid-19. Ma non è che era ricoverato di casa serena, per caso? Casa serena, infatti, era ricoverato, sì, bravo. E chi era questo confessato? Quindi figurati tu. È tutto quanto più orribile questo baracchino, mi sento. L'ho avuto pure tutto pulito. È pieno di birra dentro. C'è avuto la birra dentro, c'è caduto. Come si trovava là? L'ha ricoprato anche lui? No, non è che si trovava là. A me me l'ha dato Franco California. Mi ha detto sistemalo. E lo stavo usando per pezzi la vetta. Poi è arrivato adesso, voglio fare una prova, per il sistemare. Ho preso, ho sistemato, ho visto che funzionava benissimo, da 20 watt, figurati. E gli ho detto a Franco, ti ho dato, vaffanculo, mi tengo l'apparato. E così ho fatto, e funziona finora, è perfetto. No, io poi faccio, come mai Giulio si trovava lì? Ah? Come mai Giulio si trovava lì in casa serena? Perché ha avuto un ictus, capito? Beveva sempre, capito? Era sempre effuso. Peggio bai, dove sono venuti di che? Da poco mi sa cosa, ho visto un altro, Luciano Astori, che te lo ricordi? Che fine aveva fatto? Via Giovanni Pascoli abita, angolo via da Serenda. Stavo cercando il baracchino, l'altra volta stavo cercando, te lo recupero un baracchino, io mi salire sopra il tetto, mi passi il cavo, eccetera, eccetera. Certo, se mi pare, non c'è problema, te faccio quello che vuoi tu, detto. E certo, non te lo faccio gratis, io ho detto. Sempre lo stesso, diciamo. Sì, sempre con quella specie di scooterino, quello per i validi. Tutto vive Giovanni Pascoli alle 8:30. Dopo porto il Rosello, i primi due barchi ci sono, 8 virini. Scooterino per i validi. Questi due barchi ci sono prima di attraversare il porto del Rosello da Giovanni Pascoli, per andare al centro storico. Io trovo quei due bar lì la mattina, c'è lo scooterino, quello piccolino, hai capito, per i validi, e lui lì, seduto fuori. Ma non vedi che tu c'ha lo scooter per i validi? Ehi! Ma non vedi che è Porto Mare? Ehi! Cazzo, ma certo, tutto con il trame che sto portando, cazzo. Hai messo male, me. Ma mai so male. Non so che malattia abbia, comunque sì, è messo male. Se tu passi la mattina presto, verso le 9:20 tutto vi viene. Il primo bar che fa angolo proprio Rosello. Il primo bar che fa l'angolo Rosello. Via Giovanni Pascoli, sto parlando angolo. Allora, fai, via Casaretta, un po' più avanti, ci sono due bar, ci sono, prima dove si va la ferramenta. Dopo la farmacia più avanti qua destra. Eh? Ma dopo fate un po' Rosello, verso il freddo, c'è le picche, perché stavo mirando a lavorare io. Di fronte proprio a dove ci sono le poste, che è presente, lui frequenta lì. Ma le poste sarte? Esatto. Ma le poste sarte molto prima, Ma è vero, come sono quella che Giovanni Pascoli? Mi frequenta lì. Ed è, di fronte c'è l'edicola, per le poste. L'edicola, poi c'è il vendolo. Esatto. E lì c'è il bar Boccador. Esatto, c'è un bar lì vicino. Un bar, fatti il uno prima e l'altro dopo, cioè. C'è una ragazza che conosco io al secondo bar, che lavorava qua all'hotel. Quello che è sotto la farmacia, più avanti. Che è piccolino l'ingresso. Esatto, sì. Tu lo frequenta, a quello o l'altro lo frequenta? Tutti e due frequenta. Com'è questa motoretta che sta lui utilizzando? Che colore è? Quelle rosse, ce l'hai presente, quelle a quattro ruote, due davanti e due dietro. Lo riconosco, speriamo magari. C'ha il, come si chiama, arancione, chiami. Come si, quella giacchetta, ce l'hai presente? La mettesi addosso, quella arancione, che poi la mette nello scooter, me. Quello giacchino... L'ho fatto quando si è fatto chiedere sulla macchina. Ho capito, sì, proprio di ciò. Esatto, bravo, sì. Ciao, lo trovi lì comunque tu la mattina presto. 9:30 lo trovi lì, perché io qualche volta andavo lì per fare dei documenti, lo trovavo lì, davanti al bar. Non mi piace un paio di volte, poi avevo un'antenna, un baracchino, mi ha detto, certo, ho detto, busco, quando vuoi tu, gli ho detto. Ma c'è la questione del cavo, va bene, quello non ti preoccupare. C'è la gioia, ho detto, tu non ti preoccupare, non te l'ho detto, la busco. È stato anche sopra il petto, ma te ne parli. Poi invece no, non si era fatto niente, la verità. Ma dice la cosa, poi ne fa un'altra. Ma non vuol dire che anche lui beve? No, beve caffè lui. Poi non ho più visto Mario che legato. Neanch'io. Non ho più visto neanch'io. Però mi ha detto la circostanza che l'ha visto il centro storico. Vabbè, ma tutti abitavano lì nel centro storico. Quando non sanno dove devono andare, vanno tutti al centro storico a abitare. Questo è poco ma sicuro. Io guardavo quando avevo nel commerciato a parte il video, adesso quando te da Piero glielo dico, guarda che tanto Falcone cerca di rientrare, dico, guarda, perché non si può più sopportare, ecco, ripensati tutto, perché a me ci fai compagnia, non si può come sopportarlo, dico. Quando la potete sentire a Luca Falcone che è cantato, che è tanto, non solo io, sì, ma io, c'era cioè, molto di giorno a domani. No, quando scendevo lì diceva cazzo, dov'è? Quindi quando diventa Falcone diventa un orgoglio, mi ha detto, non ti preoccupare, già te lo faccio sapere, io ho detto, no. Per quello. Perché ci ho messo baracchino che ha fatto qua fare la guarda. Ma senti cosa può fare questo scopo, che Giovanni lavora qui di sotto. Eia! Ma aspetta, scoppia il profilo. Lava piatti. Sotto qua, cosa mi sono? Sì, non quello di Sant'Orso, quello di Sant'Orso va la figlia. l'ha un mezzo, sì, perché va da Strano. Ho capito. Mezzo ce l'ha? Sì, c'ha la macchina Giovanna. C'ha tutto, sì, cazzo, ci mancherebbe. C'è il baracchino, tutta roba mia quello che c'è a me. Baracchino, antenna, alimentatore, tutta roba mia. Ma io là ho mangiato più di una volta la pizza, perché Savrona è comico. Ho notato ancora una tipa che ci dice anche la cassa e c'ha sempre tutti quanti i cotonetti. Perché cosa cazzo c'ha di là? Non ho capito, la tipa che c'ha? Dei guanti bianchi cotone. Prendi soldi, cassa, quello per l'altro, poi scrive. C'ha sempre queste cazzo di guanti bianchi. E c'ha sempre c'è la cassa. Non so se la compagna il padrone. Ma il via pezzicotto? Io me l'ho iniziato a mangiare la pizza lì, perché il padrone era pronto. C'era la sala fumatori che praticamente fa questa la strada. E poi c'è la parte interna, il cortile e Manoga. Tu sei parlando di Monica, stai parlando. La fidanzata. E come mai tu c'hai quanti bianchi? Cosa cazzo c'è arrivato? Non lo so, la verità non lo posso dire. Hai capito? Non lo saccio, comunque lui è sempre lì. Alla cassa, sì, esatto. Qualche giorno ci andiamo, Tony. Oggi ci mangiamo la pizza. Vediamo che il padrone che è un po' per quello che si chiama. Non mi vedrà male, perché si vede sempre con una donna diversa quando va a mangiare la pizza lì. Tranquillo, sì. Quando ci vede Giovanna tutti e due, dice cazzo. Antonello e Cotonino Kawasaki. Vabbè, mi riconosce a me. Già, ti riconosce, non ti preoccupare. Già non è tanta Giovanna, lo sai. Quindi andiamo, noi ci mangiamo una pizza, poi la pizza la andiamo. Quanti anni c'è Giovanna adesso? 40 e qualche 42, mi sembra contate una cosa già. Sì, tanto se vedo a me, tranquillo che c'è chi è quello, tanto già viene, non ti preoccupare. Quindi ci mangiamo la pizza se la piglia in culo. Non c'è problema, oggi guarda, non so neanche ricordare che sono fatta l'altra volta, ma sono attaccato alla funzione, volevo uscire dopo qualche tanto per la mattina, ma non ho finito manco una gara di parlare. Adesso sono un'altra, domani faccio più. Non era tanto il G6 che però non lo faccio. E proprio, domani, non lo faccio. Proprio, guarda, proprio nulla, cioè vuol dire, non avevo mai uscito la macchina, nulla, zero. E ti trovo a mettere a giocare con il cane, che vabbè, quello sì, è così. Vabbè, dai. È già l'1:20, sennò questa qui magari si sveglia. Ci trovo domani mattina, Tonina. Anzi, ci vediamo domani mattina, così ti do quella roba, ti do. E sei a posto. Buonanotte, buon tutto, non è possibile. Ok, ciao, Fred, ci vediamo dopo la fine, adesso, dopo la fine, ci sono per me. Ciao, Fred, a domani, ciao, ciao. Ehi, ciao, ciao, ciao, domani.